Vai. Allora, abbiamo ancora la nostra pagina di internazionale, accendendo i riflettori su un mutamento che c'è stato nell'area medio orientale. In particolare c'è stato un riavvicinamento fra Mosca e Ankara, un riavvicinamento fra due nemici per quanto riguarda il fronte siriano, ma che si sono riavvicinati in nome degli interessi energetici. Quindi questi cambiamenti sono interessanti da seguire, perché poi ci danno anche un'idea di come si riposizionano i vari fronti all'interno di quella che sta diventando la guerra, una nuova guerra molto simile a quella che fu nel 99, la guerra in Jugoslavia per la spartizione della Siria. E Mosca e Ankara non si guardavano di buon occhio, non solo perché appunto militano in fronti contrapposti in Siria, ma anche perché ci fu quell'episodio dell'abbattimento del Sukhoi russo da parte delle forze aeree turche. Ma poi c'è stato questo incontro il 9 agosto fra Putin e Erdogan, che si sono incontrati a San Pietroburgo, un incontro da cui molto probabilmente è disceso anche il via libera all'intervento turco militare nella zona del Kurdistan per impedire il riavvicinamento dei cantoni curdi nel nord della Siria. Questa volta ci sono rivisti però in nome appunto degli interessi energetici, perché Putin e Erdogan hanno firmato un accordo che risuscita il Turkish Stream, un gasdotto rivolto soprattutto verso i mercati europei, che aveva preso all'inizio il posto del South Stream, che poi è stato abbandonato, e l'accordo prevede la costruzione di due linee principali sul fondo del Mar Nero, ed è prevista è previsto per il dicembre del 2019, costo di 11,4 miliardi di euro. E questo non solo c'è un'apertura molto forte anche ai commerci, perché c'è lo smantellamento delle barriere all'import di prodotti agroalimentari turchi in Russia. La Turchia è un forte produttore di prodotti agroalimentari, e la creazione di un fondo di investimento comune quasi di un miliardo di dollari. Questo è si accelera anche il progetto per la costruzione di impianti nucleari fra i due paesi. In particolare la Russia Rosatom è impegnata a costruire una centrale atomica in Turchia ad Akkuyu. E tutto questo proprio nel momento in cui il presidente avrebbero concordato un'intensificazione anche dei contatti militari e di un avvicinamento che è un po' paradossale nel contesto della guerra siriana, perché appunto da una parte la Russia appoggia il regime di Assad, dalla parte della Turchia invece ha appoggiato espressamente le milizie anti-Assad. La Russia però sta consolidando la propria presenza militare in Siria. Infatti è stato annunciato che la base navale di Tartus, che è l'unico porto russo nel Mediterraneo, diventerà una base permanente. A Tartus questa base è stata ereditata dall'Unione Sovietica, e il ministro della difesa ha annunciato lavori per l'ampliamento e il rafforzamento delle infrastrutture in modo così da poter assistere il maggior numero di navi nel Mediterraneo. E poi i russi hanno anche schierato dei missili terrari S-300 a difesa della vicina base aerea che è presso Lakatia. Tutto questo significa che in pratica la Russia sta mettendo decisamente piede all'interno dello scenario siriano e medio orientale. Ma c'è un altro aspetto della guerra in corso che sta scuotendo tutto il Medio Oriente, di cui si parla molto poco, è quello che sta succedendo nello Yemen. E la guerra nello Yemen è iniziata più di un anno e mezzo fa, nel 2015, ed è una guerra particolarmente sanguinosa, perché l'Arabia Saudita, scusami se ti interrompo, particolarmente ignorata dai media. Assolutamente. Bisogna trovare qualche articolo ogni tanto andando a spulciare i giornali, però veramente nel nelle TV io credo non se ne parli proprio non mai. Non se ne parla nonostante solamente l'8 ottobre i raid dell'aviazione dell'Arabia Saudita hanno colpito una veglia funebre nella capitale Sanaa causando 140 morti e 525 feriti. Un attacco che non è stato casuale perché fra le vittime ci sono diverse personalità politiche, ufficiali, militari, ma poi soprattutto civili. E l'Arabia Saudita non solo sta bombardando, distruggendo magazzini, fabbriche, centrali elettriche, porti, ospedali, serbatoi d'acqua, quindi tutti obiettivi che possiamo tranquillamente definire obiettivi civili, ma ha imposto un assedio a tutto il paese tagliando i rifornimenti alimentari, il carburante e le medicine. E questo significa che in pratica un anno e mezzo dall'inizio della guerra il sistema sanitario in gran parte dello Yemen è completamente crollato, c'è un'emergenza alimentare. E questa distruzione è stata resa possibile con l'appoggio materiale e morale degli Stati Uniti, che hanno fornito a Riyadh un gran numero di aerei militari, bombe, missili e bombe a grappolo che sono vietate fra le altre cose dalle convenzioni internazionali. Gli Stati Uniti hanno finanziato Riyadh dal punto di vista di aiuti militari per 60 miliardi di dollari, è stata una delle commesse più grandi di tutti i tempi per gli Stati Uniti. Le navi statunitensi oltretutto hanno collaborato a questo assedio. E l'obiettivo dell'Arabia Saudita è soprattutto l'obiettivo di colpire gli Houthi, che sono un gruppo etnico sostanzialmente sciita che ha sempre avuto dei legami molto forti con l'Iran, e quindi il wahhabismo saudita vede questo pericolo della presenza ai propri confini meridionali dell'Iran. E anche questa una guerra un po' per interposta persona di cui fanno le spese soprattutto i civili, ma bisogna anche dire che quasi 40 anni fa i sauditi hanno stabilito questo insediamento della loro corrente estremista che ancora governa l'Arabia Saudita, il wahhabismo, nel cuore proprio del territorio che apparteneva agli Houthi, con una protezione che ormai è storica da parte degli Stati Uniti. Ma questo aumento della pressione militare, queste stragi hanno portato anche in qualche modo ad una protesta formale da parte degli Stati Uniti. C'è stato un esponente del congresso che si è definito disturbato da quello che è successo, quindi insomma diciamo che una strage del genere disturba. Evidentemente l'appoggio degli Stati Uniti continua imperterrito, anche perché questo significa sostenere il loro alleato storico. E c'è stato anche da parte degli Stati Uniti il tentativo da parte di Obama di impedire che per esempio le vittime degli attentati dell'11 settembre potessero fare delle cause che si sarebbero rivelate milionarie nei confronti dell'Arabia Saudita. Obama ha messo il veto, ma non ce l'ha fatta, e il Congresso invece ha votato questa legge. Quindi i rapporti, diciamo così, fra gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita sono dei rapporti che sono sempre di stretta alleanza, ma che vedono anche dei momenti di tensione, anche perché poi nell'Arabia Saudita ormai c'è stato di fatto un passaggio di potere a uno dei principi ereditari, che è un giovane che adesso ha anche in mano l'esercito e il Ministero degli Interni, e che quindi adesso sta spendendo tantissimo per questa guerra, tant'è che per la prima volta in assoluto l'Arabia Saudita ha dovuto tagliare il proprio budget e soprattutto tagliare i trasferimenti al settore pubblico. L'Arabia Saudita ha un'economia fondata sostanzialmente sul petrolio, ma questa guerra sta costando veramente tanto anche a questa economia.